Dio chi? Dio. Non vi è parola più grande e misteriosa, soprattutto perché è riferita a qualcosa o a qualcuno di non definibile, anzi, di indecifrabile e sconosciuto. Blaise Pascal, giustamente, scrisse che se Dio ci è nascosto, eppure su questo qualcosa o qualcuno si è scritto, si scrive e si scriverà tutto e di tutto. E il più delle volte, senza dire niente di non già espresso o che non sia privo di qualche contenuto pratico. Perciò niente di più vero della citazione. Quando l'uomo parla di Dio, si accorge con terrore che sta parlando di tutt'altro. Eppure, sono molti i libri mediante i quali si pretende di spiegare chi è Dio, cosa fa, cosa pensa, e di illustrarne il carattere, i piani. Anche se noi uomini continuiamo ad affermare, con dubbia umiltà, quel tanto di umiltà che ci permette di essere accettati, che Dio non si può comprendere né spiegare. E che dire della sentenza che troviamo nel libro Compendio del Pensiero Cristiano, voce della Bibbia 1994, pag. 310? Sono in molti oggi coloro che all'interno delle chiese continuano a parlare di Dio, ma poi, rispetto al tradizionale concetto cristiano di Dio come essere esistente, ammettono di essere atei. Perché allora si parla tanto di Dio? Per comprendere quello che verrà detto, è doverosa una premessa, che traggo dal libro Nuove evidenze che richiedono un verdetto di Josh McDowell, ECB 2004, pag. 517-519, al capitolo 22 gradi, dal titolo Il fenomeno dei nomi di Dio. I critici hanno sostenuto che l'uso isolato dei vari nomi di Dio Yahweh e Elohim indica la presenza di più di un autore. Ciò condusse Astruc alla conclusione che ci fossero diverse fonti intessute e mescolate nel Pentateuco. Umberto Cassato, lo studioso giudaico ed ex professore dell'Università Ebraica, prosegue. Consideriamo i caratteri dei due nomi, essi non sono dello stesso tipo. La designazione Elohim era originariamente un nome comune, un appellativo, che veniva attribuito sia al Dio di Israele che agli dei pagani, così anche era il nome El. D'altra parte il nome Yahweh è un nome proprio, il nome specifico del Dio di Israele, il Dio che gli israeliti riconoscevano come il sovrano dell'universo e la divinità che li aveva scelti come suo popolo. Si potrebbe supporre che i due nomi fossero usati indistintamente come termini sinonimi, solo per dare varietà di stile. Questo, tuttavia, sarebbe un errore. Sembra cosa da poco, ma i nomi di Dio e il termine Dio stesso hanno dato più filo da torcere agli studiosi biblici e a molti credenti di tante altre verità. Inoltre, per quanto appaia un'affermazione esagerata, dalla comprensione di essi e dall'uso conseguente dipende la nostra valutazione della volontà di Dio. Le seguenti riflessioni lo metteranno in evidenza. I teologi sostengono che, essendo Dio incomprensibile quando si parla di Lui, è necessario impiegare un linguaggio antropomorfico, ossia quella forma di pensiero che attribuisce alla divinità caratteristiche umane, senza che per questo le siano proprie. Ma è proprio vero che Dio non ha delle caratteristiche umane? Chi lo ha detto? Se fosse vero che Dio non può avere caratteristiche umane, secondo quale o a immagine di chi saremmo stati fatti? Se Dio è tutt'altro ed è uno spirito purissimo, senza corpo e senza parti, confessione della fede riformata, perché allora? Da 2000 anni i cristiani sostengono che Gesù, il figlio di Maria di Nazaret e moglie di Giuseppe, è Dio fattosi carne? Non ha forse Gesù Cristo caratteristiche umane come qualsiasi essere umano? Ma senza aver ricevuto una natura corrotta dal peccato? Alcuni teologi non hanno forse definito Gesù il corpo di Dio? Oppure Gesù non è veramente Dio? Se Gesù Cristo ha caratteristiche umane, o come lo definisce la scrittura Cristo Gesù uomo 1 Timoteo 2.5, cosa comprendo quando leggo sempre nella scrittura che Dio è spirito? Giovanni 4.4, il dizionario biblico GBU marzo 2008, commenta, per quanto riguarda la sua natura, Dio è puro spirito, ovvero energia intelligente. Pag. 444. Avete letto giusto. Ma è proprio vero? Se Dio è puro spirito, e come affermano altri teologi, per questo non ha né può avere un corpo come abbiamo noi, perché allora è stato visto e toccato. Infatti sta scritto che Mosè e i 70 anziani di Israele videro Dio, Esodo 24.1011. Mentre è scritto pure che Giacobbe lottò con Dio, uno straordinario evento, questo, confermato da Yahweh stesso, quando si rivolse al patriarca in questi termini: tu hai lottato con Dio e hai vinto. Genesi 32.28. Perché, allora, i teologi sostengono che Giacobbe ha lottato con un angelo, cioè un essere celeste creato con le ali? Perché lo dice il profeta Osea 13.4? No, perché sono grandemente imbarazzati nel conciliare il fatto che Dio sia spirito e nello stesso tempo che Yahweh, che è sempre Dio, abbia un corpo. E un imbarazzo estremamente disagevole e che molti teologi devono nascondere perché non verrebbero stimati come coloro che studiano Dio e lo spiegano agli altri. Così questi teologi dimostrano una loro certa incapacità se non sono in grado di armonizzare la verità che Dio è spirito e, in quanto tale, invisibile a chiunque, ma che nello stesso tempo possiede anche un corpo tale da essere stato visto e toccato già precedentemente alla venuta di Gesù. Infatti, se non si è in grado di spiegare questo elementare enigma, come si può essere in grado di chiarire chi è Dio? Questo spiega perché si parla di Dio, si spiega chi è, si scrive su Dio, si intrattengono conferenze su Dio. E, alla fine, ognuno rimane nel proprio buio iniziale. Tanto Dio è incomprensibile, no, che male ci è nell'indire una conferenza su Dio e continuare a rimanere nel buio sulla sua persona? Buio che si aggiunge al buio. Buio, del resto, che viene anche alimentato da incontri interreligiosi. Incontri animati solo dalla mania di confrontarsi per non affrontare la verità, che è sempre scomoda ed esigente. Si afferma che esiste un solo Dio, che tutti alla fine crediamo lo stesso Dio, che possiamo benissimo pregare e adorare assieme il medesimo Dio. Ma Dio chi? Ci siamo mai posti questa domanda? Chi se la pone viene visto come un sovversivo, come uno che abbia due teste. O nella migliore delle ipotesi viene considerato come un sobillatore dell'annacquata fede cristiana. Diventa un estremista, un terrorista religioso, perché porsi il problema di chi sia il soggetto di cui stiamo parlando? Di Dio, no? Punto e basta. Eppure le cose non stanno così. Per prima cosa, non è sufficiente la nominatio Dei per capire di chi stiamo parlando. Infatti si contano sulle dita coloro che sono consci delle proprie affermazioni. Ne ho avuto conferma nel porre alcune domande a professori di teologia, a direttori di scuole bibliche, e alle quali però non ho ricevuto replica. Qualcuno mi ha risposto che le domande erano interessanti, altri meno, con un certo tipo di astuzia, ma hanno risposto di non averci mai pensato prima. Il secondo motivo per cui quando si parla di Dio ci si accorge di parlar d'altro è che i cristiani da sempre hanno professato e professano che Dio non è solo, ma quando si parla di Lui parliamo di tre persone uguali in quanto a natura, ma distinte in quanto a persone. Per cui nel Dio professato dai cristiani sussistono, possedendo la stessa natura eterna, il Figlio, il Padre e lo Spirito Santo. Essi sono coeguali e coetermi, in potenza e gloria. Per molti questo è già un mistero, mentre nulla ci è di più comprensibile se si pensa che le tre persone divine condividono la stessa natura, come se avessero lo stesso DNA, ma, in quanto alla relazione esistente tra loro, si distinguono per la personalità peculiarmente individuale di ciascuna di esse. Perciò, parlando di Dio, di chi stiamo parlando? Del Figlio, del Padre o dello Spirito Santo? Oppure di tutti e tre? Sarebbe facile rispondere che si parla di tutti e tre perché sono partecipi della stessa natura e, Quindi quello che fa uno è attribuibile anche agli altri, ma questo non è sempre possibile. Anzi, assolutamente impossibile. Infatti, è il padre che ha mandato suo figlio sulla terra per riscattare l'uomo perduto e non è stato il figlio a scegliersi questo compito. È il figlio che è morto in croce, non il padre, né lo Spirito Santo. È stato lo Spirito a far sì che Maria Vergine rimanesse incinta di Gesù, non il padre o il figlio. È vero che tutte e tre le persone divine hanno concepito in armonia il piano di creazione e di redenzione prima della creazione di ogni cosa, ma ogni persona ha svolto un compito che gli è proprio. Senza questa premessa, riferendoci al Dio dei cristiani, non sappiamo di chi parliamo. E così, per fare prima, le persone predicano che Dio ha creato, che Dio ha parlato ai patriarchi e ai profeti, che Dio è morto in croce, che Dio ha messo incinta Maria, che Dio ha dato una legge, che Dio... Ma Dio, chi? In un certo qual modo è possibile anche esprimersi con questo linguaggio, ma esso è simile al linguaggio del bambino, intenzionato a proclamare la vittoria della macchina durante la corsa, senza tenere presente, tuttavia, che può trattarsi tanto di una Ferrari quanto di altro. È vero che una macchina ha vinto, ma quale tipo di macchina? Così è vero che si parla di Dio, che la Bibbia inizia col dire che nel principio Dio creò i cieli e la terra, ma chi? Dio chi? I teologi sostengono che tutte e tre le persone della Trinità hanno creato, ma questo contrasta in modo lampante con quanto troviamo scritto nella Bibbia, perché secondo gli scrittori sacri, il creatore o l'esecutore è stato Cristo e solo Cristo. L'Evangelista e Apostolo Giovanni lo attesta molto chiaramente. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. La parola. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Giovanni 1.1.3. Anche dall'autore della lettera agli Ebrei lo attesta. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Infine, pure l'Apostolo Paolo ha attribuito solo a Cristo la creazione di ogni cosa. Cristo è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Colossesi 1.1.5.16. Dunque, quando si attribuisce a Dio la creazione, dobbiamo sempre tenere presente che, delle tre persone della Trinità, il creante è Gesù Cristo e Lui solo. Altrimenti, dimoreremmo in una cattiva coscienza cristiana. Come facevano gli apostoli ad affermare con tanta sicurezza che il creatore è stato Cristo? Dal momento che il loro pensiero scaturiva dalle scritture dell'Antico Patto, dove avevano attinto la convinzione che Cristo sia in esclusiva il creatore? Dato che leggiamo nel libro della Genesi, nel principio Dio creò i cieli e la terra, dove vedevano gli apostoli l'opera di Cristo? Come potevano associare il termine Dio a Cristo, dato che il corrispondente ebraico del termine Dio, Elohim, è un plurale, e inoltre è un sostantivo che in definitiva vuole indicare una divinità qualsiasi o una qualsiasi autorità. Infatti, le divinità dei popoli pagani venivano chiamate Elohim, allo stesso modo, dei sacerdoti e dei re. La fede degli apostoli e dei primi credenti nell'uomo Gesù Cristo, quale Dio e creatore di ogni cosa, derivava dal fatto che nel leggere il racconto della creazione, al secondo capitolo della Genesi, essi trovavano scritto che ad aver creato ogni cosa non è Dio, o in ebraico, Elohim, quindi non una vaga divinità, ma una persona precisa e indicata con il proprio nome. Yahweh, un nome proprio, il cui termine italiano corrispondente è Eterno, o il Signore, come troviamo in certe traduzioni. Infatti, è Yahweh a creare ogni cosa e non Dio. Ecco il punto dove occorre il primo chiarimento per capire l'errore di fondo motivante il fatto che parlando di Dio Le persone si rendono conto con terrore di parlare di tutt'altro e alle quali viene spontaneo porsi la domanda «Dio, chi?». Siamo costretti a fare distinzione tra la divinità di Yahweh e il termine generico Dio che noi usiamo comunemente. Così leggiamo in Genesi 2.79. Virgolette. L'Eterno Yahweh Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi l'Eterno Yahweh Dio piantò un giardino in Eden, ad oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. E l'Eterno Yahweh Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi, e i cui frutti erano buoni da mangiare. In mezzo al giardino vi erano anche l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il primo errore nel leggere questa parte della scrittura è considerare i nomi di Dio, Elohim, Yahweh, e, in seguito, Adonai, identici o interscambiabili. Ma, come troviamo scritto anche nel dizionario biblico, edito GBU, marzo 2008, pag. 448, essi non sono sinonimi, perché Yahweh è un nome proprio, il nome di una persona. Da notare nome di una persona. Purtroppo è stata data poco importanza a questa verità, tra l'altro sottolineata da tanti testi di teologia Menoè, proprio a causa di questa lacuna, vi è grande confusione in merito all'identità di Dio. Cosa cambia, agli effetti pratici, il fatto che Yahweh, essendo il nome proprio di una persona, non è intercambiabile con Elohim o Adonai? Molto, anzi moltissimo. Prima di tutto, se Yahweh è il nome proprio di una persona, non può identificarsi con il termine Dio, perché con quest'ultimo noi cristiani abbiamo in mente tre persone, non una sola. E, precisamente, intendiamo il Figlio, il Padre e lo Spirito Santo. Ne consegue che, essendo Yahweh il nome proprio di una persona, per forza di cose questo nome si riferisce o al Figlio, o al Padre, o allo Spirito Santo. Ma non può riportarsi o riferirsi a tutte e tre le persone della Deità. Inoltre, se la scritta Yahweh si riferisce ad una persona, non può essere considerato un contenitore nel quale troviamo tutte e tre le persone della Trinità. Infatti, il vero problema teologico a fondamento della mancata comprensione della scrittura e, di conseguenza, di Dio, sta nel fatto che il nome Yahweh sia considerato sinonimo di Dio, per cui dire Dio e dire Yahweh sarebbe la stessa cosa. Infatti, Matthew Henry e altri teologi con lui, nel suo noto e stimato commentario biblico, afferma «Yahweh è il nome grande e ineffabile di Dio». Difficile a capirsi. Se per Dio intende una persona, sbaglia, perché i cristiani credono in tre persone. Se invece si riferisce a tutte e tre, allora occorre concludere che Cristo è Yahweh, che il Padre è Yahweh e che il grande e ineffabile nome dello Spirito Santo è Yahweh. Sbaglio. E se questo è vero, perché non viene insegnato? Ma se riusciamo a non essere inghiottiti dal collettivo, comprenderemo che questo è l'errore di fondo, il padre che genera tutti gli altri errori. Yahweh è una persona. Questa è la grande rivelazione della scrittura. Purtroppo non è possibile ora, in questa sede, addentrarci in questa verità, perché porterebbe via tanto tempo, ma è sufficiente ricordare che Yahweh ha un corpo, camminava nel giardino dell'Eden, che è stato visto e toccato. Proprio per questo, i primi cristiani ebrei e gentili ritenevano che Yahweh fosse Cristo e, sempre per questo, potevano dichiarare che Cristo era con il popolo di Israele durante il peregrinare nel deserto e lo aveva tentato, 1 Corinzi 10, e anche che Mosè scelse il disprezzo di Cristo, Ebrei 11.26. Paolo, addirittura, citando un passo dell'Antico Patto, metterà direttamente al posto di Yahweh il nome di Cristo. Perciò la scrittura dice «Risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà su di te» quando è scritto «Sorgi, risplendi, perché la tua luce è giunta, e la gloria di Yahweh si è elevata su te». Si confronti Efesini 5.1.4 con Isaia 60.1. Ma la testimonianza più forte sul fatto che Yahweh sia Cristo sta nelle stesse dichiarazioni di Gesù. quando sostenne che i libri dell'Antico Patto parlavano di lui, che Abramo lo aveva visto, e che lui era «Io sono». L'espressione «Io sono» è stata rivelata a Mosè in risposta alla domanda. Riguardo a quale fosse il suo nome, cioè la sua personalità. Secondo la tradizione ebraica, infatti, il nome era inteso come indicatore del carattere della persona alla quale era destinato, e non è sinonimo di Yahweh, ma ne è una peculiarità che rivela la sua eternità. Per questo motivo Gesù poteva dire a dei farisei credenti, i farisei comunque credevano nel Dio di Abramo, non dimentichiamolo, che leggevano la Bibbia, studiavano e predicavano la parola di Dio, perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Giovanni 8.24. Per Gesù le persone condannate alle pene eterne non saranno solo gli increduli, ma anche coloro che hanno posto fede in Lui, senza credere che Egli sia Yahweh, la divinità dell'Antico Patto, rivelato ai padri e ai profeti. E è impossibile credere pienamente e totalmente in Cristo, senza credere che Egli sia il Dio dell'Antico Patto, nominato più di 6.000 volte, con il termine Yahweh. Eppure sono pochissimi coloro che hanno compreso questo. Un esempio. Nella nota rivista teologica Studi di Teologia, nel settimo volume viene affrontato un tema unico, Cristologia oggi, e a pagina 9 in merito alla divinità di Gesù leggiamo: «I cristiani che da lungo tempo conoscono la Cristologia ortodossa spesso si stupiscono quando scoprono quanto poche siano le occasioni in cui il Nuovo Testamento chiama esplicitamente Gesù, Dio. Le attribuzioni esplicite della divinità a Gesù si limitano a poche proposizioni incidentali. Perché i teologi vedono questa abissale penuria della testimonianza di Cristo, quale Dio, nelle Scritture? Semplice. Perché non hanno compreso che Cristo è Yahweh, citato più di 6.000 volte. I primi cristiani, infatti, non avevano bisogno di dire che Gesù è Dio perché, credendo che Lui fosse Yahweh, non ritenevano necessario specificarne ulteriormente la divinità. Questa ultima riflessione chiama alla mente un'altra grande verità. Nella nostra cultura, dichiarando di credere in Dio, esprimiamo la nostra fede in una persona, poiché questa è l'immagine evocata nella nostra mente da tale vocabolo. In realtà, però, non vi è nulla di più falso, perché normalmente la dottrina cristiana riferisce tale sostantivo a tre persone, tranne ovviamente nelle occasioni in cui attribuisce questo nome singolarmente a una delle tre persone divine, o a Dio Padre, o Dio Figlio, o alla persona dello Spirito Santo. In questo caso, il termine in questione assume il ruolo di indicatore della rispettiva caratteristica divina comune a ciascuna delle tre singole persone. Quindi, il termine Dio non ha sempre lo stesso significato, perché talvolta indica le persone divine nella loro totalità, talvolta soltanto una di esse, mentre altre volte anche solo la caratteristica comune che le contraddistingue. Proprio per questa verità banale, affermare che i credenti dell'Antico Patto credevano in Dio è fuorviante e a volte sbagliato. A dire il vero, non è sbagliata la frase in sé, ma quello che si vuole sottintendere. Normalmente, affermando che Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè e Davide credevano in Dio, nel profondo del nostro essere abbiamo la convinzione che i credenti prima della nascita di Gesù credessero in Dio come noi oggi, cioè che anche loro credessero in un Dio trino come noi, senza però esserne coscienti. In definitiva, poiché noi sappiamo di implorare la Trinità, invocando Dio, riteniamo che i credenti dell'Antico Patto invocassero la Trinità senza saperlo, quando pronunciavano il nome di Yahweh. Niente di più lontano dalla verità. Se Yahweh è un nome proprio, se Yahweh è una persona, se Yahweh è stato visto e toccato, com'è possibile ritenere tale nome un termine plurale applicabile a Dio in senso generico e sinonimo di divinità? Infatti, quello che sfugge alla maggioranza delle persone è che gli ebrei non credevano in Dio ma in Yahweh. È vero che Yahweh è Dio, nel senso che è la divinità del popolo di Israele, Ma Dio in questo caso è il sostantivo comune che indica la persona recante il nome proprio Yahweh. Come dire che Gesù è Dio? Infatti, non è mai scritto nella Bibbia che gli ebrei credevano in Dio, inteso con lo stesso significato attribuito a questo termine attualmente. Questa verità, pur essendo così lampante, sfugge ugualmente all'attenzione della nostra lettura, e per quanto mi riguarda, ho impiegato quasi 40 per rendermene conto. O meglio, Dio me lo ha fatto comprendere dopo circa 40 anni di intensa e costante lettura biblica. Ecco tre brani significativi che mettono in evidenza questa verità. Deuteronomio 10:12 «E ora, o Israele, che cosa richiede da te Yahweh, Dio tuo, se non di temere? Yahweh Dio tuo, di camminare in tutte le sue vie, di amarlo e di servire Yahweh Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima». Deuteronomio mezzogiorno 18 «Ma le mangerai davanti Yahweh Dio tuo nel luogo che Yahweh Dio tuo sceglierà tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo servo e la tua serva, e il levita che abiterà entro le tue porte. E gioirai davanti Yahweh Dio tuo di ogni cosa a cui metti mano». Deuteronomio 23, 5. Ciò nonostante Yahweh Dio tuo non volle ascoltare Balaam, ma Yahweh Dio tuo mutò per te la maledizione in benedizione, perché Yahweh Dio tuo ti ama. Le espressioni Yahweh il tuo Dio, o Yahweh il vostro Dio, o Yahweh nostro Dio, oppure Yahweh Dio di Israele, si trovano centinaia. Chi lo ha colto, chi ha compreso che i credenti dell'antico patto non credevano in Dio, ma in Yahweh quale loro Dio, o divinità. Così sta scritto, cantate a Dio, il suo nome è Yahweh, Salmo 68.4. Infatti, mentre gli altri popoli avevano una loro divinità, un loro Dio o più dei, Israele adorava e serviva Yahweh come proprio Dio o divinità. Niente più di questo. Per cui è inutile speculare sul termine Dio per arrivare a sostenere che i credenti prima della venuta di Cristo credevano in Dio al pari di noi, o sapevano di invocare la persona del Padre, perché è un ragionamento che non porta da nessuna parte. Facciamo un esempio. Dante è un poeta, ma se diciamo che i fiorentini hanno visto e parlato con il poeta, chi ascolta? Cosa comprende? Di poeti ce ne sono stati tanti, ma se dico che Dante ha detto o fatto la tal cosa, tutti comprendono di chi sto parlando. Perciò, se con il termine Dio noi ci riferiamo a una qualsiasi autorità divina, il ragionamento regge quando affermiamo che i patriarchi hanno parlato con Dio. Diversamente, se nel termine Dio ravvisiamo tutte e tre le persone della Trinità, stiamo dicendo tutt'altro che la verità. I patriarchi e i profeti credevano in Yahweh e che Yahweh fosse il loro Dio, o la loro unica divinità. Nulla di più. Ha ragione, commenta Michael Gren, 50 anni fa la parola. Dio, almeno in Occidente, aveva un solo significato. Non è così oggi. La parola vuole dire quasi tutto. Perciò, prima di proclamare il Vangelo, può essere indispensabile definire il significato della parola Dio, i 30 anni che cambiarono il mondo -GBU 2009, pag. 120. Il Dizionario di Teologia Evangelica, a cura di Pietro Bolognesi, Leonardo De Chirico e Andrea Ferrari, edito EUN, marzo 2007, sotto la voce Dio, cita: «Il linguaggio umano è tutto ciò che abbiamo per adorare, confessare e discutere su Dio. Sebbene esso sia adeguato per questo compito, ha però bisogno di essere regolarmente adattato». In modo poco appariscente la Bibbia stessa mostra questo adattamento, perché essa presenta abitualmente Dio come una persona sovrannaturale, che ha creato l'umanità a sua immagine e la cui vita, pensieri, atteggiamenti e azioni sono fondamentalmente paragonabili ai nostri, sebbene essi contrastano con i nostri perché sono liberi sia dai limiti della nostra finitezza creaturale, sia dalle imperfezioni morali che sono parte integrante della nostra peccaminosità. Il linguaggio narrativo e descrittivo riguardo a Dio è quindi usato in senso analogico, anche se non è mai esattamente identico al senso che le parole comunicherebbero se fossero usate per gli esseri umani. Pegdente. 196. Questo è il pensiero generale dei teologi. Per loro, il linguaggio umano è dunque adeguato per discutere di Dio, ma è anche talmente limitato che ogni descrizione su Dio risulta imperfetta. Per questo si usa interpretare in senso analogico la fraseologia biblica riguardante Dio. Interpretare in senso analogico è far leva su di un rapporto di somiglianza tra due soggetti per trarne qualche tratto comune. Per cui, quando si parla di Dio che, secondo la maggioranza dei teologi e molti credenti, è unicamente spirito infinito e incomprensibile, si ha la convinzione di non disporre di parole adatte per definirlo. E, per forza di cose, il linguaggio umano risulta sempre inadatto a determinarlo. Questo è ciò che si dice in teologia. Ma è proprio vero tutto ciò? Ho qualche perplessità in merito a questa teologia, perché non sono i pensieri e gli atteggiamenti di Dio a essere essenzialmente paragonabili ai nostri, ma siamo noi che fondamentalmente abbiamo atteggiamenti e azioni paragonabili a Dio. Non è una novità. Infatti, vi è massimo accordo tra gli studiosi biblici nel ritenere che le cose terrene siano il riflesso delle cose celesti, come il tabernacolo terreno rifletteva quello celeste e non il celeste che riflettesse quello terreno. Per cui, se si interpreta in senso analogico la terminologia della scrittura, non si deve prendere il terreno come canone paragonabile al celeste, ma si dovrà considerare il celeste spirituale per paragonarlo al terreno. Credo proprio che l'errore di fondo dei teologi stia nell'interpretare in senso analogico, partendo cioè dall'umano per comprendere il divino, sbagliando così di conseguenza la prospettiva della loro visione concernente Dio. Nessuno tra i credenti in Cristo mette in discussione che l'uomo e la donna siano stati creati a immagine di Dio. Molto, ma veramente molto, si è detto in merito al termine immagine, ma a mio modesto avviso spesso si tratta di idee coniate dalle forme primitive della psiche umana. Il termine immagine non è da sottovalutare, tenendo presente che, se si considerano anche gli usi al genere plurale, lo si trova più di 100 volte nei testi biblici. A valorizzare questo termine non è tanto il numero di volte in cui lo si riscontra nella parola di Dio, ma la sua applicazione. Infatti esso viene usato per spiegare che l'uomo è stato fatto ad immagine di Dio, che Mosè vedeva l'immagine di Yahweh e che Gesù è l'immagine del Dio invisibile. Già solo questi tre aspetti rendono necessaria una più approfondita analisi del vocabolo per cogliere il meraviglioso pensiero che Dio ha voluto rivelare all'uomo. Iniziamo con il considerare che l'uomo è stato fatto ad immagine di Dio. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. Genesi 1.2627. Nel racconto della creazione del primo uomo e della prima donna, il sostantivo ebraico selem, reso in italiano con la parola immagine, viene usato 3 volte e, in tutte e 3, esso è messo in relazione con la divinità, definita Dio. Qualsiasi spiegazione si dia al sostantivo immagine, esso ha a che fare con le persone del Dio trino degli ebrei e dei cristiani. Inoltre, a nessun altro, sia appartenente al mondo minerale, vegetale o animale, è mai stato dichiarato di essere stato fatto a immagine di Dio. Riguardo al Dio che ha fatto l'uomo a propria immagine, sappiamo essere una divinità trina, perché, da sempre, i cristiani credono che in Dio sussistono 3 persone, e cioè il Padre, il Figlio e la persona dello Spirito Santo. Proprio perché il Dio dei cristiani è trino, alcuni hanno ipotizzato che il termine immagine si riferisca al fatto che l'uomo e la donna hanno una natura trina, cioè sono fatti di corpo, di anima e di spirito. Altri studiosi, invece, hanno ravvisato nel termine immagine una investitura della razza umana a dominare sul creato, ad avere creatività, a essere il rappresentante di Dio. Altri ancora, invece, vedono nell'espressione immagine di Dio la somiglianza fra le qualità morali possedute dall'uomo. quali la giustizia, la purezza, l'amore, il perdono, l'umiltà, la conoscenza e quelle tipiche di Dio. Eppure, i due termini immagine e somiglianza compaiono come sinonimi in un'iscrizione scoperta a Tel Fekerie, Siria, ai piedi di una statua di un re, dalla quale si apprende che l'aspetto fondamentale dell'immagine è rappresentare una persona. L'immagine del re, di conseguenza, deve rappresentare, o meglio, essere. Nello stesso modo, l'uomo, creato a immagine di Dio, ha il compito di rappresentare Dio. L'aspetto esteriore non è assolutamente accantonato. Perciò, nel termine Selem, cioè immagine, ci è qualcosa di più profondo che, una volta individuato e applicato, alle altre parti della scrittura rende più comprensibile il pensiero di Dio. Né nel libro della Genesi, né altrove nelle scritture, si trova un tentativo di spiegare il significato di immagine di Dio. Questo porta a pensare che l'espressione doveva essere familiare ai lettori. Notiamo l'espressione immagine applicata in certe circostanze che possono rendere chiaro il pensiero degli scrittori biblici al riguardo. Uno dei brani biblici dove si trova il termine immagine è al capitolo 5 della Genesi. Questo è il libro della discendenza di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò, l'uomo lo fece a somiglianza di Dio. Li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome di uomo. Nei giorni in cui furono creati, Adamo visse 130 anni e generò un figlio a sua somiglianza, conforme alla sua immagine, e lo chiamò Set. Genesi 5.1.3. In questa occasione, lo scrittore descrive l'uomo fatto a somiglianza di Dio, un'espressione già riscontrata anche nel capitolo 2, nel corso della prima descrizione dettagliata della creazione dell'uomo. In seguito, lo scrittore racconta che Adamo generò un figlio e che lo generò a sua somiglianza e conforme alla sua immagine. Espressioni queste identiche nel loro significato e che definiscono, senza mezzi termini, come l'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio, appunto. Non vi è dubbio sull'intenzione dello scrittore di comunicare che Adamo abbia generato un figlio recante le sue stesse caratteristiche, non solo morali, ma anche somatiche. In definitiva, Adamo ha generato un figlio che non era altro se non una Selem, cioè un calco, una copia esatta o in definitiva una riproduzione fisica e spirituale di se stesso. Il termine ebraico Selem, va ricordato, può anche essere tradotto con ombra, ma alcuni studiosi di ebraico non vedono di buon occhio questo accostamento. Però sono concordi nel ritenere che il termine immagine possa essere reso con statua, rilievo, calco, come il calco di gesso che si usa per le statue, disegno, costellazione, figura cultuale, forma corporea. Quindi, quando leggiamo che l'uomo inteso come maschio e femmina, secondo la definizione di Genesi capitolo 5, fu fatto ad immagine di Dio, significa che il Dio trino dei cristiani deve avere anche, oltre a quelle già prese in esame, caratteristiche umane da intendersi sia come forma fisica sia come caratteristiche sessuali. Conclusione questa che potrebbe essere ritenuta assurda, ma è comunque avvalorata dal resto della scrittura. O Eterno, tu sei nostro Padre. Isaia 64.8. Come una madre consola il proprio figlio, così io consolerò voi. Isaia 66.1.3. Dio è tanto padre quanto madre. Si sostiene che Dio è spirito e non può avere un corpo. Che Dio sia spirito è vero perché lo dice la scrittura. Ma trarre da questa affermazione la conclusione che Dio non abbia un corpo è un errore, derivato non tanto da ciò che è scritto ma da un'errata comprensione di questa asserzione. Se Dio non ha un corpo, perché la scrittura afferma che uomini e donne hanno visto Dio e lo hanno toccato, se Dio non si può vedere perché Yahweh, la divinità dell'antico patto, rivolse le seguenti parole a Miriam e ad Aronne quando volevano togliere l'autorità a Mosè: con lui io parlo faccia a faccia facendomi vedere e non con detti oscuri, ed egli guarda l'immagine di Yahweh. Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? Numeri 12, 8. Ancora una volta troviamo il termine immagine, impiegato però ora da Yahweh Dio per se stesso, sostenendo che Mosè vedeva la sua forma corporea o la sua esatta riproduzione. Dunque, Yahweh, il nome proprio della divinità ebraica, tradotto con Eterno o Signore, termine oggi, completamente sminuito del significato attribuitogli al tempo di Gesù, ha una forma corporea, che si può vedere e toccare. In effetti, Giacobbe vide Yahweh e lottò con lui, cioè con il Dio di Israele. Con questa prospettiva possiamo comprendere meglio ciò che troviamo scritto nella Genesi. In merito alla creazione di Adamo ed Eva, così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina, Genesi 1.26-27, poiché il termine Dio è un nome comune, attribuito anche alle divinità pagane, e il cui significato di conseguenza sta per divinità. Dobbiamo intendere che delle persone sussistenti in seno alla divinità fu Yahweh, cioè Cristo, a fare l'uomo e che lo realizzò a sua immagine, creandolo secondo la copia esatta della propria forma corporea, o, ancor meglio, della propria fisicità. Dunque, quando parliamo del Figlio di Dio, cioè Cristo, che è stato fatto uomo, non dobbiamo intendere che Dio è stato fatto ad immagine dell'uomo, cioè che Dio è stato fatto in forma corporea simile all'uomo, ma che l'uomo è stato fatto ad immagine di Dio, cioè che è stato fatto in forma corporea simile alla fisicità del Dio creatore, cioè di Cristo. Così, piuttosto che definire Dio un essere antropomorfo, è corretto riconoscere che è l'uomo ad essere teomorfo. In merito alla sessualità di Dio, molto è stato detto. Ma se Dio fosse asessuato, come la maggioranza di persone e teologi sostengono, l'uomo e la donna non sarebbero stati fatti in una forma corporea esatta all'originale. Ognuna delle due parti non rimarrebbe separatamente immagine e somiglianza di Dio. Il nostro problema è che di fronte all'espressione caratteristiche sessuali, per forza di cose, il nostro immaginario collega i genitali maschili e femminili, idea che associata a Dio, giustamente aborriamo. Ma il termine sessualità non si limita necessariamente alla sfera degli organi genitali. Dio nella scrittura viene presentato sia come un padre, sia come una madre. È colui che feconda, è colui che partorisce, una immagine androgina. Su questo non ci piove. Se togliamo l'aspetto maschile e femminile nel Dio trino, se neghiamo il suo aspetto androgino, la sua parola non ha più senso. Se in Dio non vi sono caratteristiche femminili e maschili, come può essere un padre o una madre? Per chi pone fede in lui? Se per Dio essere padre e madre sono analogie distanti dall'esprimere ciò che lasciano intendere le parole, chi è allora Dio? Di chi parliamo? Dio punto chi? Il termine immagine, interpretato come forma corporea, trova la sua massima espressione quando è riferito a Cristo. I primi cristiani, degli ebrei la cui formazione culturale dettava che Dio non potesse assumere un corpo, applicarono proprio questo senso a Cristo. Paolo scrisse, nella seconda lettera ai Corinzi, «Se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio». 2 Corinzi 4.3.4. E nella lettera ai Colossesi l'Apostolo disse, «Poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati, egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui». Colossesi 1.1-3.16. Dunque Dio, inteso come le tre persone nel loro insieme, non si può vedere, ma Yahweh Cristo Gesù è l'immagine di Dio, cioè la forma corporea e visibile della divinità, in definitiva il corpo umano di Dio. e solo questo, è quanto di Dio sia possibile vedere. Se crediamo che Cristo sia l'immagine di Dio, allora non sono poi così assurdi gli usi di antropomorfismi nel ritenere che Yahweh possa udire con delle orecchie come le nostre, vedere come vediamo noi con degli occhi e camminare come camminiamo noi. In genere gli antropomorfismi sono considerati allegorici o figurati, cioè senza contenuto letterale. Vedi aggiungi alla fede la conoscenza Nos, edizioni GBU 1994 pag. 61 e, di conseguenza espressioni da non prendere alla lettera, ma alla luce di queste riflessioni ritenerli letterali diventa un obbligo. Alfred Kuhn nel suo libro Come interpretare la Bibbia scrive: il senso figurato corrisponde al senso letterale. IBE Edizioni, 1997, pag. 57. Del resto Yahweh, nella scrittura è letteralmente definito uomo di guerra, secondo la traduzione letterale dall'ebraico, là dove noi solitamente traduciamo l'Eterno degli eserciti. Esodo 15, 3. Quando la scrittura afferma che Dio è spirito, Giovanni 4:24 esprime un'asserzione da capire, la quale non è tuttavia riferita al Padre, come se egli fosse incorporeo in contrapposizione a Gesù, che pur essendo sempre Dio invece ha un corpo. Il termine spirito è impiegato in riferimento alla natura del Dio Trino, che è spirituale. Anche il corpo di Gesù risorto è spirituale come lo sarà quello che riceverà il credente nel giorno della sua resurrezione, al ritorno di Gesù sulla terra, 1 Corinzi 15, 44. Così quando leggiamo Dio è spirito e nessuno ha mai visto Dio, Giovanni 1.18, dobbiamo intendere che tutta la Trinità sia di natura spirituale. Mentre quando leggiamo che l'uomo è stato fatto ad immagine di Dio, dobbiamo intendere che la razza umana è stata fatta anche con una forma corporea simile a quella del Figlio di Dio. Così G. von Rad, un teologo di fama mondiale, ritiene che si debba inquadrare correttamente il concetto dell'immagine di Dio. Vanno pertanto respinte le interpretazioni che procedono da un'antropologia estranea all'Antico Testamento e che restringono unilateralmente la somiglianza con Dio alla spiritualità dell'uomo, alla sua dignità, personalità o capacità morale di decidere, eccetera. Non si deve in alcuna maniera escludere dalla somiglianza con Dio la meravigliosa figura del corpo dell'uomo. Sarà bene separare il meno possibile il corporale dallo spirituale. Il Nuovo Testamento, ERO, uomo, e l'Antico Testamento, TOAD, immagine di Dio. Il Dio Trino non poteva attuare una creatura in modo più glorioso, se non facendo un essere a sua immagine. Detto questo, se l'uomo naturale è una copia di Dio, ovviamente priva della natura divina, possiamo dire che, per forza di cose, la terminologia della scrittura esprime comunque la realtà che descrive. Il grande apologeta C.S. Lewis, in merito a questo tema, disse: «Se i nostri giudizi morali su Dio sono diversi dai nostri, tanto che il nostro nero per lui sia bianco, chiamare Dio buono non ha senso. Infatti dire Dio è buono affermando nello stesso tempo che la sua bontà è totalmente diversa dalla nostra, in effetti è lo stesso che dire Dio è non sappiamo cosa dire». Il problema della sofferenza, edizioni GBU, giugno 1988, pag. 34. Ecco dove si arriva. Quando si mette troppa enfasi nel proclamare l'impossibilità da parte nostra tanto a definire quanto a comprendere Dio, si rimane ai livelli degli ateniesi al tempo dell'apostolo Paolo, i quali adoravano Dio senza conoscerlo, un Dio ignoto. Frutto questo di una cattiva coscienza cristiana. Sostenere di non comprendere Dio ha una grande apparenza di umiltà, ma di fatto contrasta con un principio fondamentale della creazione dell'uomo, e cioè che le leggi di Dio meno e, quindi, il suo carattere e la sua volontà sono state introdotte nel DNA dell'uomo. Infatti, Yahweh disse al suo popolo: «Questo comandamento che oggi ti prescrivo non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. Non è in cielo, perché tu dica, chi salirà per noi in cielo per portarcelo e farcelo ascoltare, perché lo mettiamo in pratica? Non è di là dal mare, perché tu dica, chi passerà per noi di là dal mare per portarcelo e farcelo ascoltare, perché lo mettiamo in pratica? Ma la parola È molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. Deuteronomio 30.1114. Perciò, anche se è vero che la creatura umana non può e non potrà mai arrivare a comprendere completamente il Dio Trino, ha però ricevuto il dono di poter comprendere l'umanità di Dio, umanità, espressa nel suo Figlio Gesù Cristo. Questa è la grande e prima rivelazione. Quindi, quando parliamo di Dio, dobbiamo chiederci: Dio, chi? Se parliamo della natura divina, tutti siamo d'accordo nel riconoscere la nostra incapacità a comprenderla. Se invece parliamo di Gesù Cristo, siamo orgogliosi di poter dire con l'Evangelista Giovanni: nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. Giovanni 1,18. Questo atto di fede, preso sul serio, placa molti dubbi e interrogativi, portandoci a comprendere che i primi cristiani facevano differenza tra il termine Dio, inteso come Trinità, e il termine Dio o Yahweh riferito solo a Cristo. Ecco alcuni esempi. In merito alla creazione, non vi è dubbio che è stato Dio a creare, ma quando gli scrittori biblici vogliono specificare il creante, specificano che non è il Padre e neppure lo Spirito Santo, ma Cristo. Un giorno tutti gli uomini saranno giudicati da Dio, ma quando vogliono specificare chi è il giudice, allora specificano che non è il Padre ma Cristo Gesù. Gesù stesso disse: poiché il Padre non giudica nessuno ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, Giovanni 5.22, al riguardo non deve sfuggirci l'espressione utilizzata dagli apostoli. In una delle sue esortazioni Pietro scrive: e se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore. 1 Pietro 1.17. Poiché è Cristo Gesù che giudica e giudicherà l'umanità intera, Pietro fa notare che gli uomini si rivolgono a lui come padre, perché partecipe della stessa natura paterna della Trinità, senza però essere il padre, inteso come prima persona della Trinità. Dio è immutabile, mentre Yahweh muta. Un solo discorso di Yahweh in merito al popolo di Israele mette in evidenza questo aspetto. Talvolta riguardo a una nazione e riguardo a un regno, io parlo di sradicare, di abbattere, di distruggere. Ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. Altra volta, riguardo a una nazione e riguardo a un regno, io parlo di edificare e di piantare. Ma se quella nazione o regno fa ciò che è male ai miei occhi, non ascoltando la mia voce, io mi pento del bene che avevo promesso di farle. Geremia 18.7.10. È inutile sostenere che il pentirsi di Yahweh è solo un verbo antropomorfico, privo del suo senso letterale. Adducendo in merito la spiegazione che se Dio si pentisse, non sarebbe più Dio. Qualsiasi senso si voglia dare al termine, un dato oggettivo resta certo: che Yahweh ha detto tante cose e in seguito ha cambiato idea. Quando voleva distruggere il popolo di Israele, se non fosse stato per l'intercessione di Mosè a favore della sua gente, Yahweh avrebbe agito secondo il suo piano. E questo si accorda col fatto che Yahweh si pente, cioè cambia idea o programma, ma il Dio Trino nei suoi propositi eterni? No. Occorre fare distinzione tra il termine Dio e la parola J-I-Ave. Sta scritto, nella lettera di Giacomo, che Dio non può essere tentato dal male. 1.13. E per questo alcuni teologi pensano che Gesù, essendo Dio, non fosse stato veramente tentato e non poteva peccare. Vedi aggiunge alla fede la conoscenza Pag. 173. Questo errore sta nel fatto che mettono Gesù solo sul piano di Dio. È vero che Gesù è sia uomo sia Dio, ma dobbiamo fare una differenza tra la sua umanità e la sua divinità. Sta scritto che Dio non dorme, Salmo 121, ma Gesù, come uomo, ha dormito sulla barca. Dio è onnisciente, ma Gesù tante cose non le sapeva. Dio non muore, ma Gesù è morto. Se si estremizza sulla divinità di Gesù, allora possiamo dire che Pilato ha visto e parlato con Dio. come pure tutti i contemporanei di Gesù, perché tanto Gesù non è Dio, una sola verità che non sia in armonia con altre verità conduce all'errore, come per chi ha la fede riformata. Mettendo troppa enfasi solo sulla sovranità di Dio, arriva alla conclusione che alcune persone sono predestinate alla perdizione e altre alla salvezza, quando è la volontà di Dio che tutti siano salvati. Confondere l'opera del Figlio con quella del Padre è un errore che costa caro tanto nell'ambito teologico quanto in quello ermeneutico e pastorale. Costa caro in campo teologico perché non sappiamo più a chi rivolgerci e chi pregare. Infatti, dato che vi è un solo Dio, in tre persone, o meglio, che tre persone coeterne, consostanziali sussistono in una sola deità, ma ognuna delle persone ha opere individuali, no? Questo errore lo mette bene in evidenza Stuart Olliott nel suo libro I tre sono uno, nel quale, parlando della preghiera, così si esprime: spesso il credente inizia parlando di Dio il Padre, ma, dopo qualche frase, lo ringrazia per essersi dato sulla croce. Egli cade nell'errore dicendo del Padre ciò che invece deve essere detto del Figlio. Perciò, per quanto possano sembrare inutili queste riflessioni, almeno ci insegnano a pregare nel modo giusto. E non è poco. Costa caro in ambito ermeneutico, la disciplina che studia come interpretare le scritture. Perché i credenti in Cristo, senza saperlo, sono come i testimoni di Geova, e, per questo, i loro incontri-scontri durano ore e ore. Infatti, se ritengono che Yahweh, tradotto anche con Geova, sia il Padre, nel dichiarare Gesù è figlio di Dio, implicitamente si esprimono intendendo che Gesù è figlio di Geova, per quanto senza esserne consapevoli. Quindi, quando si dice che Gesù Cristo è figlio di Dio, dobbiamo chiederci di Dio chi. Generalmente si pensa che Gesù sia figlio di Dio, intendendo con tale termine il Padre, ma, a parte il fatto che sta scritto solo una volta che Gesù è figlio del Padre, 2 Giovanni 1.3, se lo Spirito Santo è Dio, Gesù non è forse anche figlio dello Spirito Santo? E, forse una cosa strana, se Cristo ha in eterno una relazione di figlioranza con il Padre, non ha forse una relazione di figlioranza anche con lo Spirito Santo? Chi ha compreso questo? Infine, confondere l'opera del Figlio con quella del Padre è un errore che costa caro anche sotto l'aspetto pastorale, perché se la mia vita è plasmata dal concetto che ho di Dio, da come lo vedo e cosa penso di Lui, avendo un'immagine distorta di Dio, trasmetterò agli altri un'idea al capendia riguardo altrettanto distorta, e che li condurrà a vivere un cristianesimo alterato, con matasse aggrovigliate di pensieri contorti. Una disordinata vita cristiana, conseguente a un modo cristiano di pensare sbagliato, che ha percorso innumerevoli generazioni. In conclusione, possiamo affermare che quando leggiamo articoli e studi sulla persona, termine improprio di Dio, o sui suoi attributi, non riusciamo ad avere nella nostra mente una netta distinzione riguardo l'identità della persona alla quale ci riferiamo, finendo in tal modo per attribuire il tutto alla persona del Padre. Stranamente, in quando le cie l'accatto aggiungi alla fede e la conoscenza, leggiamo: quando si parla dell'unico vero Dio nell'antico patto, bisogna sottintendere o il Figlio di Dio oppure lo Spirito di Dio. In teologia si dice proprio di tutto. Citando per lo più l'antico patto, alcuni scritti affermano che Dio, si sottintende il Padre, è tre volte santo, onnisciente, onnipotente, onnipresente, giusto, immutabile, verace, amore. Ma, da una lettura anche non impegnativa, possiamo verificare che gli attributi ora citati sono attribuiti a Yahweh, il Dio dell'antico patto. Dato che Yahweh è Cristo e non il Padre, né lo Spirito Santo, elencando gli attributi di Dio, elenchiamo in realtà le caratteristiche di Cristo. È vero che la natura di Cristo è uguale a quella del Padre e che Cristo e il Padre sono uno, come se in comune avessero lo stesso DNA, ma non possiamo fare di tutte le erbe un fascio per quanto riguarda le peculiarità delle loro opere. E il Padre che ha risorto Gesù Cristo e attira le persone a Cristo, è il Figlio che è morto in croce, è lo Spirito Santo che rigenera chi crede. Così, per una corretta comprensione del nostro messaggio e della nostra fede, È saggio e corretto riferirci a Yahweh, parlando della persona del Dio dell'Antico Patto. Al Padre, quando sottintendiamo Dio quale Padre di Gesù Cristo, e infine a Dio, vorrebbe tutto maiuscolo, quando vogliamo intendere la Trinità. Questo invito può sembrare inutile perché, parlando di Dio, spesso ci si riferisce alla sua natura, perciò non è mai sbagliato affermare che Dio sia tre volte santo, perché tale affermazione è riferita sia al Padre, sia allo Spirito e al Figlio. La mia preoccupazione è un'altra. Siccome per 35 anni ho sempre applicato la parola Dio al Padre, a meno che non venisse specificato che essa era riferita a Cristo, parlando e scrivendo riguardo a Dio, trovo opportuno specificare a quale persona della Trinità ci si voglia riferire. Esattamente, perché Dio è uno e Chad, ma non è solo uno, anche se tutte e tre le persone sono di una sola e medesima sostanza. Lo so che la fede comune spesso si isola e non vuole essere disturbata, ma quando tutti nella parola Dio non scorgeranno più automaticamente solo la persona del Padre, quando nel tetragramma Yahweh individueranno solo la persona di Cristo, quando faranno distinzione tra Yahweh e il termine Dio, allora la scrittura diventerà come nuova, come sta scritto. Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. 1 Corinzi 2.9. Accantonare un problema del genere mi sembra molto poco galante, soprattutto nella teologia. Per dare un ultimo contributo a questa ricerca, propongo di tenere presente una verità che i teologi non mettono a sufficienza in evidenza e che a mio avviso costituisce un buon metodo per comprendere rettamente di chi stiamo parlando, cioè avere una dimensione trinitaria. Se quando parliamo di Dio ci accorgiamo di parlare di uno sconosciuto, è a motivo del nostro approccio ellenistico pensiero greco-romano ai testi ebraici. Stabilito che quando nelle scritture ci si riferisce al Padre, al Figlio e all'altro Consolatore, si parla di un solo Dio, il passo seguente è non confondere le relazioni esistenti all'interno della loro comunione con i loro individuali rapporti con il creato e l'uomo. I teologi chiamano questa diversità trinità ontologica e trinità economica. La trinità ontologica è riferita all'interno della Trinità, dove le tre persone sono uguali in onore, gloria e potenza. Tre persone sussistenti nell'unico tutto indiviso e indivisibile Dio. La Trinità economica si riferisce alle funzioni svolte da ciascuna delle tre persone della Deità, distinte tra loro, nell'opera di salvezza. Per fare questo occorre una mente trinitaria, senza la quale predichiamo un monoteismo trinitario, cioè che tutti abbiamo uno stesso Dio e Dio diventa il Dio dei senza Dio. Detto questo, occorre però non commettere un errore che porterebbe a qualsiasi eresia, ritenendo che le relazioni interne alla Trinità siano uguali a quelle che la Trinità stringe con il genere umano. Benché gli intenti delle tre persone della Trinità siano gli stessi, le persone si distinguono in virtù delle loro opere, come del resto si distinguono per le loro relazioni in seno alla Trinità. Infatti, ogni persona della Trinità ha un rapporto molto diverso con il creato e il genere umano. Anche se, considerandone l'operato dal punto di vista della medesima e unica natura da esse posseduta, si può attribuire a tutte e tre le persone divine ogni opera personale propria di una di loro. Così, al termine di queste brevi riflessioni, comprendiamo che ogni persona della Trinità ha un rapporto specifico e diverso nei confronti dell'uomo. Mentre solo se si considerano le persone divine all'interno della loro relazione che i padri venuti dopo Giovanni Damasceno e i teologi chiamano circuminsessione o pericoresi, possiamo affermare che Dio ha creato ogni cosa, che è morto per i peccati e che rivela all'uomo le cose profonde che lo riguardano. Questo forse è l'errore fondamentale nel leggere la parola di Dio, cioè il fare di tutte le erbe un fascio, che nel nostro caso corrisponde a confondere le tre persone divine. che si distinguono per una relazione incomunicabile perché opposte fra loro, con il loro rapporto personale con il creato e l'uomo. Chi riesce a fare questa distinzione molto difficilmente si lascerà ingannare dalle sette, ma soprattutto capirà che il Dio dell'antico patto, Yahweh, rivelatosi ai profeti e sul monte Sinai, è Cristo, il quale in seguito si è fatto carne e nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Colossesi 2.3. Questo è certamente un passo indispensabile per avere una chiarezza affascinante della parola di Dio. Per un contributo, chi osa dirsi cristiano? Felix Moser, Claudiana Torino 2008, pag. 1920. Esistono infatti tanti discorsi su Dio quanti sono i modi per appropriarsi di Lui. Come creare allora uno spazio per Dio che rispetti veramente Dio? Bisogna dirlo onestamente, niente e nessuno può garantirci che il Dio di cui parliamo sia veramente Dio, piuttosto che un'illusione, una visione del nostro spirito, o, ancora, il prodotto delle nostre rappresentazioni e dei nostri desideri. Qual è il Dio che ci anima e che orienta nella pratica la nostra esistenza? Il Dio che serviamo si identifica con il buon Dio delle nostre cause e del nostro successo o con quello che sorprende e degli imprevisti che invitano a proseguire un cammino che non si domina? Ora, ciascuno sente, in maniera confusa, che è più facile denunciare i falsi dei degli altri che stanare gli idoli che si nascondono in noi. Nota in fondo alla pagina 21. Dimensione apofatica, espressione che significa che, rispetto a Dio e al fatto che si tenta di definirlo, è preferibile mantenere il silenzio al fine di non tradire ciò che egli è. Io sono Dio e non c'è e alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me. Isaia 46:9. Geova è Cristo. 1. Cristo Gesù è il creatore come Geova. Isaia 42:5, 45, 12, 18, 44, 24, 51, 13, 54, 5, Sa 96, 5, 115, 15, Ger 51, 15, EF 3, 9, Giov 1, 1 a 3, 10, Coluna e 16, EB 1, 2, 2. Cristo Gesù è il Salvatore come Geova. Isaia 43, 11, 43, 3. 45, 11, 15, 21, 49, 26, 60, 1, 6, Osea 13, 4, Giovanni 4 e 42, Tito 1.4, 3.6, 2 Pietro 1.11, 2.20, 1 Giov 4.14, Atti 13.23. 3. Cristo Gesù è il primo e l'ultimo come Geova. Isaia 44, 6, 41, 4, 48, 12, Apocalisse 1 e 17, Apocalisse 1 e 17, 2, 8, 22 e 13. 4. Cristo Gesù è il buon pastore come Geova. Salmo 23, 1, Giovanni 10 e 11, Giovanni 10 e 44, Ebrei 13 e 20, 1, Pietro 5, 4, 5. Cristo Gesù ha l'autorità di risuscitare chi vuole, esattamente come Geova. 1 Samuele 2, 6, Giovanni 5, 21, Matteo 25, 31, 46. 6. Cristo Gesù è il giudice come Geova. Salmo 9, 7 a 8, Gioele 3, 11, 12, Salmo 96, 10, 13, 98, 9, Giov 5, 27, Matteo 25, 31, 46. Atti 17 e 31. 7. Cristo Gesù è la luce, come Geova. Isaia 60, 19 e 20, Giovanni 8 e 12. 8. Cristo Gesù è l'Io sono, come Geova. Esodo 3, 14. Isaia 42, 8. 45, 6. 45, 18. 48, 12 e 17. 51, 15, Giov 8 e 58, 6 e 48, 6 e 51, 8 e 12, 8 e 18, 8 e 24, 828, 10, 7, 9, 10 e 11, 14, 11 e 25, Atti 9, 5, 18 e 10, 22, 8 e 26. Cristo Gesù riceve la gloria come Geova. Isaia 42, 8, 48, 11, Giovanni 17, 1 e 5, 10. Cristo Gesù è Redentore, come Geova. Isaia 41, 14. Salmo 19, 14. Isaia 43, 14, 44, 6, 44, 24, 54, 5, Geremia 50, 34, Osea 13 e 14, 1 Pietro, 1 e 18, 19, 11. Cristo Gesù è lo Sposo, come Geova. Isaia 54, 5, Osea 2, 16, Matteo 9, 1 quarto, 25, 1. Giov 3, 29, 2 co 11, 2, Efesini 5, 22, 32, Apocalisse 21, 2, 12. Cristo Gesù è la roccia, come Geova. Deo 32, 30, 31, 32, 4, 32, 15, 18, Isotto 13, 14, 26, 4 a 1, co 14, 4. Mat 16 e 18, Lu 6 e 48, Ro 9 e 33, 1 Pie 2, 7, 13. Cristo Gesù perdona i peccati, come Geova. Geremia 31, 34, Numeri 14 e 20, Isaia 43 e 25, Daniele 9, 9, Marco 2, 7 e 10, Marco 2, 5, Luca 7 e 48, 14. Cristo Gesù è adorato dagli uomini e dagli angeli, come Geova. Salmo 29, 2, Genesi mezzanotte 26, Esodo 24, 1, Salmo 99, 9, 148, 1, 2, Ebrei 1, 6, Matteo 28, 16, 17, 15. Cristo Gesù è invocato in preghiera, come è invocato Geova. Salmo 99, 6, Salmo 86, 5, 145, 18, 1, Corinzi 1, 1 a 2, Atti 7, 59, 9, 14, 21, 22, 16, 2 Timoteo 2, 22, Romani 10 e 13, 16. Cristo Gesù è il creatore degli angeli, come Geova. Salmo 148, 1 a 5, Colossesi 1 e 1 quarto, 17. Cristo Gesù è confessato, Signore, come Geova. Isaia 45, 22, 23, Filippesi 2, 9, 11, 18. Cristo Gesù è il Santo di Israele, come Geova. Isaia 30, 15, 1, 4, 5, 24, 10, 20, 12, 6, 30, 12, 15, 37, 23, 41, 14, 16, 20, 43, 3, 14, 54, 11, Salmo 99, 3, 5, 9, Apocalisse 3, 7, Marco 1, 24, Luca 1, 35, 4, 34, Giovanni 8, 46, Atti 2, 26. Cristo Gesù è il Re come Geova. Isaia 43, 15, Zaccaria 9, 9, 14, 9, 16, Apocalisse 17, 14, 19 e 16, Matteo 2, 2, 27, 11, Giovanni 19 e 19. 20. Gesù Cristo è la pietra di inciampo come Geova. Isaia 8 e 13 meno 14, 1 Pietro 2, 2 a 7. 21. Cristo Gesù è colui che tornerà e metterà il piede sul monte degli Ulivi come Geova. Zaccaria 14, 4, Atti 1 e 11. 22. Cristo Gesù è il Signore dei Signori come Geova. Deuteronomio 10 e 17, Apocalisse 17 e 14. 23. Cristo Gesù è la voce del deserto come Geova. Isaia 43, Luca 3, 4, 24. Isaia 43, Luca 3, 4, Gesù Cristo è stato trafitto come Geova. Zaccaria mezzogiorno e 10, Giovanni 19, 36, 25. Gesù Cristo è salito, ha fatto prigionieri e ha dato doni agli uomini come Geova. Salmo 68, 18, Efesini 4, 8. E il Padre, punto voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto. Giovanni 5, 37. Chi hanno visto e udito i credenti dell'antico patto? Maggio 2010. Ellero.